Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Con la sola eccezione della Lazio, che evidentemente ha deciso di prolungare le vacanze, le altre grandi del campionato hanno vinto tutte, più o meno brillantemente. Le tre di testa, Juventus, Milan e Udinese, le tre che provano a rifarsi sotto, Inter, Napoli e Roma. Certo, la classifica sembra aver preso una connotazione non definitiva, ma definita sì, sia davanti che dietro, perché ci sono queste tre squadre che lottano per lo scudetto e tre staccate sul fondo con la quart'ultima a 6 punti, e comincia a essere, se non un'impresa quasi, quella di rimontare. Ma così come l'Inter dà la sensazione di poterla davvero tentare una rimonta, visto che con tutte le debolezze del Parma, ma insomma ai risultati adesso da sabato aggiunto anche la qualità del gioco che si è visto, e questo perlomeno varrà fino a domenica sera, quando giocherà il derby con il Milan. Ci sono un paio di squadre da centro classifica come Genoa e Palermo che hanno cambiato allenatore, ma che danno la sensazione preoccupante della caduta libera. Allora, come sempre, 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta del lunedì. Qualche numero subito di Franco Piantanida, interessante, e poi dichiarazioni che arrivano da Roma, dal congresso, potremmo chiamarlo, comunque dall'abituale convegno di più o meno metà stagione tra arbitri, allenatori e capitani. Allora i numeri: l'Atalanta non ha mai perso in casa, prima della sconfitta di ieri col Milan aveva ottenuto 4 vittorie e 4 pareggi. Ibrahimovic è alla sua miglior stagione italiana dal punto di vista della produttività, nel senso che nemmeno quando vinse il titolo di capocannoniere con l'Inter con 25 gol era a quota 12 a questo punto della stagione. Nelle ultime 6 partite ha sempre segnato 7 gol, 5 però dei quali su rigore. La Juventus in compenso ha eguagliato il record di imbattibilità, perché le prime 17 partite senza sconfitte c'erano state nel 49-50 con la Juve di Jesse Carver, che poi quell'anno vinse il titolo e che, a differenza degli attuali 10 vittorie e 7 pareggi, aveva ottenuto la bellezza di 15 vittorie e 2 pareggi. Quagliarella il prossimo anno farà bene a saltare la prima partita dell'anno, visto che un anno fa, al primo turno del 2011, 6 gennaio, si ruppe il legamento crociato. Stavolta gli è andata molto meglio, ma è pur sempre uno zigomo che si è fratturato ieri. Quanto alla terza capolista, cioè l'Udinese, Di Natale è salito al 25esimo posto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi, a quota 142 gol, dove ha agganciato, andiamo in ordine di età, Benito Lorenzi, Paolino Pulici, Bobo Vieri e Girardino, che invece, a differenza dei precedenti, ha ancora la possibilità di duellare con lui, anche se il suo debutto con la maglia del Genoa non è stato poi così felice. Vi dicevo di questo raduno romano tra arbitri, allenatori e capitani, e mi pare che stanno arrivando una serie di dichiarazioni significative, poi magari riusciremo anche a farvi ascoltare qualche voce più avanti, e se no le rimandiamo a domani. Però le anticipazioni dell'ANSA in qualche caso sono interessanti. Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, si è rivolto ai calciatori, ai capitani, e ha detto: guardiamoci in faccia, questo è un momento difficile, dobbiamo esserne tutti consapevoli, e se vediamo intorno a noi qualcosa di anomalo dobbiamo segnalarlo, come ha fatto Farina, che come saprete stasera sarà addirittura premiato in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro, è stato appositamente invitato da Blatter. L'altra dichiarazione interessante è invece di carattere tecnico. Marcello Nicchi, che è il presidente dell'AIA, cioè dell'Associazione Italiana Arbitri, ha una precisa domanda di Buffon sull'annosa questione dell'espulsione del portiere per fallo da ultimo uomo, cioè rigore più espulsione. Marcello Nicchi ha dichiarato: gli arbitri italiani in Europa contribuiscono fortemente a determinare le regole. Abbiamo già chiesto di cambiare e continueremo a chiedere questa regola, che è una vera schifezza, a meno che non si tratti di un fallo violento. E quindi quello che pochi giorni fa Paolo Casarin ci ricordava essere una precisa istanza da parte arbitrale, cioè quella di depenalizzare in un certo senso il fallo da ultimo uomo del portiere, a meno che non si tratti di un fallo particolarmente violento, è uno degli obiettivi della classe arbitrale italiana ed è uno degli argomenti sul tappeto per le prossime riforme della FIFA. Allora, 800 24 00 24, vi ho già ricordato il numero per intervenire in diretta. Io dal campionario di voci che possiamo riascoltare da ieri comincerei da quella di Jovetic, perché delle sei doppiette di giornata, due delle quali interamente dal dischetto, quella di Calaiò sabato con il Siena e di Totti ieri, mi pare che la doppietta di Jovetic sia stata particolarmente significativa. Perché? Perché la Fiorentina non era certamente in un buon momento, è andata a vincere 3-0 fuori casa, sia pure sul campo di una squadra che a salvarsi, come sappiamo da tempo, farà davvero molta fatica, che è il Novara, ma si è procurato il rigore iniziale, lo ha firmato e poi ha segnato il suo secondo gol. È davvero un gioiello, visto che gli tocca per l'appunto giocare praticamente la prima punta dopo la cessione di Girardino. Beh, insomma, mi sembra la conferma che si tratta di un giovane di grande valore, Jovetic. Sì, io prima devo dire che mi dispiace molto per Girardino, perché se n'è andato, perché è un gran giocatore che ha fatto sempre tanto per questa squadra, ha segnato tanti gol. Cioè, sanno tutti che noi in trasferta stiamo giocando male, invece è andata molto bene, abbiamo cambiato anche il modulo, che è andata molto bene. Poi abbiamo girato la palla, abbiamo creato, abbiamo giocato noi, che secondo me è una cosa positiva. E abbiamo segnato tre gol, potevamo fare ancora di più. Siamo contenti e non dobbiamo accontentarci per niente, perché ci aspetta la partita con la Roma e poi la prossima con la Lecce in casa. Questo era Jovetic. Dicevo di prestazioni altalenanti, se vogliamo, delle grandi al comando, ma anche nelle posizioni di rincalzo nella classifica. La Lazio è stata l'unica a tradire, mi pare che sia un'espressione un po' forte, ma che gli stessi laziali, a cominciare da Reia, hanno usato. Non è stata particolarmente brillante la Juventus, ma quello che contava era vincere anche questa trasferta in casa dell'ultima in classifica. C'è riuscita, il primo ad augurarsi che la Juventus però cresca e ricresca in fretta è proprio Conte. Ma è un segnale, l'avevo detto prima alla vigilia, che la ripresa dopo la sosta è sempre una grande incognita, soprattutto per una squadra come la Juventus, che comunque è imbattuta da inizio campionato. Siamo soddisfatti dei tre punti, sicuramente potevamo chiuderla, secondo me, la partita prima e quindi evitarci, tra virgolette, inutili sofferenze fino alla fine, però penso, ecco, che si possa fare sicuramente meglio, ecco, come a livello di prestazione. A proposito di Farina, di questo giocatore del Gubbio che è salito suo malgrado alla ribalta ad ogni costo, Simone Farina ha fatto un gesto esemplare, ma certamente avrebbe fatto a meno, da quel che si è capito, di tutta la pubblicità che ne è derivata. Ci sono alcuni commenti di stamane che mi paiono particolarmente interessanti. Uno è del presidente federale Abete, che dice: il fatto che si premia un comportamento che rientra nella norma testimonia la preoccupazione e l'impegno nel mondo del calcio di evidenziare come questi comportamenti normali siano diffusi. E invece molto più chiaro, direi molto più diretto, il parere di Ranieri, che tra l'altro condivido in pieno, eccolo qua, dice: sono molto contento per Simone Farina, ma il brutto è che venga premiato per una cosa normale. Accadrà, ripeto, stasera a Zurigo, alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Primo intervento, Salvatore da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono né tifoso non sono tifoso dell'Atalanta né del Milan. Io ho guardato la partita Atalanta-Milan e devo fare i complimenti all'Atalanta, perché praticamente il primo tempo era una partita da 0-0, poi ci ha messo Zampino Rizzoli e ha dato un rigore inesistente, cioè era fallo di Pato su Manfredini. Ecco, questo volevo dire. Poi dopo sento Allegri che dice che c'era ammonizione per Manfredini, calcio di rigore, ma come si è visto subito che c'era un rigore, che non c'era il rigore? Volevo sapere un attimino da lei. Grazie, questo per radio. Io le farei sentire la voce di Manfredini prima di altre, perché mi sembra la più significativa. Io la penso come lei, cioè in un caso del genere normalmente quando difensore e attaccante vanno sul pallone cercando l'anticipo, Normalmente si dà palla contesa, palla difesa, no? In genere. Questo accade in area, ma anche fuori. A metà campo io credo che quel fallo lì l'avrebbero dato all'Atalanta. Non so perché Rizzoli abbia preso quella decisione, ma senta però cosa dice Manfredini, che è il diretto interessato. Cioè, riguardando l'azione, è così poi. Cioè, io vado verso la palla, poi è stato bravo lui a cercare il contatto. Non lo so, io rimango della mia idea, insomma, io ho cercato la palla, non lo vedo neanche Pato, sinceramente, è un contatto che forse da parte, se fossi stato il Milan e non avesse dato rigore, avrei protestato, ecco, diciamo così. Ci sono questi falli qua a centrocampo, fischiano sempre fallo al difensore, ecco, quando cerchi di anticipare l'attaccante lui si mette davanti, sì, nella tre quarti, e sono sempre fischiati a favore del difensore. Poi se in area di rigore è rigore, allora non so cosa dire. Classico genere di fallo al 50%, in cui qualsiasi decisione tu prenda al 50% sbagli oppure al 50% indovini, dipende da che parte la vuoi vedere. Toglierei la parte sospetta dell'intervento dell'ascoltatore, di alcuni messaggi che vedo sul display, perché se Rizzoli avesse voluto, seguendo appunto il solito modo di pensare all'italiana, se Rizzoli avesse voluto dare una mano al Milan, c'era un'occasione molto più ghiotta dopo tre minuti, quando Manfredini ha effettivamente steso Ibrahimovic in maniera inconfutabile. Quello era un rigore netto iniziale, tra l'altro. E mi sembra che questo potrebbe troncare le discussioni malevole, mentre invece la discussione tecnica sul rigore ci sta, ripeto, al 50%. Piero da Bari, buongiorno. Ciao De Granzini, vorrei fare una domanda sul Palermo. Io sono un tifoso del Milan, però ieri sera stavo vedendo Sky. Praticamente la partita è come se Mutti l'ha stravolta pure lui, secondo me, con cambi un po' strani, tutti senza senso. Cioè, Piniglia in panchina non lo fa entrare. Non so lei come l'ha vista la partita. Io l'ho vista che indubbiamente il Palermo nel primo tempo ha tenuto testa bene al Napoli e avrebbe potuto anche il risultato avrebbe anche potuto essere diverso in quel primo tempo. Poi effettivamente dopo i cambi molto è cambiato di conseguenza. Io non credo agli allenatori autolesionisti, credo che gli allenatori, come i giocatori e come gli arbitri, ogni tanto possano anche prendere qualche cantonata. Credo anche che il Palermo di questo momento non sia questa gran cosa e che quindi insomma a gioco lungo il Napoli, e un Napoli che, liberato temporaneamente dagli impegni di Coppa, evidentemente è una squadra di caratura superiore al Palermo, credo che a gioco lungo sarebbe venuto a capo ugualmente della partita, ma certamente così è stato più facile. Enzo ha chiamato da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno dottore. Mi volevo proprio collegare a quello che stava dicendo lei. Per quanto riguarda il Napoli, liberandosi un po', diciamo, dal... Perché parliamoci chiaro, i giocatori del Napoli sono tutti inesperti della Champions, di questi livelli. Quindi anche lo stesso Mazzari, che a volte anche lui magari... su certi giocatori punta continuamente, quando potrebbe anche fare in modo che altri potrebbero, diciamo, poter subentrare. Perché faccio un esempio: Fidel e Faberun, sì, è vero che ha fatto l'errore, però c'ha 22 anni, tu non puoi prendere un giocatore e farlo completamente fuori, affidandoti sempre ad Aronica, che è un tuo fedelissimo, però che Aronica comunque ogni partita fa sempre un errore. Cioè, allora questo è quello che volevo sapere: se il Napoli in questo momento, recuperando le forze mentali, recuperando, diciamo, fisicamente, io l'ho visto bene ieri in Napoli, e anche avendo in modo, perché non avendo Navezzi, che secondo me è il bene e il male del Napoli, perché ci sono giocatori che quando Navezzi parte anche da centrocampo, lo stesso Hamsik, vengono oscurati. Quindi volevo sapere da lei se secondo lei il Napoli potrebbe avere un po' più di risalita e magari riuscire almeno ad arrivare al terzo posto. La ringrazio. Credo che sia il suo obiettivo stagionale. Io credo che le prime due posizioni siano discretamente assegnate, a meno che la rimonta dell'Inter continui anche domenica sera nel derby di Milano, e allora lì le prospettive potrebbero cambiare. Se così non sarà, io credo che i primi due posti se li giocheranno Juventus e Milan, e che il terzo se lo giocheranno Udinese, Inter, Lazio, che però mi sembra in flessione seriamente, al di là dell'episodio di Siena e Napoli, più ancora della Roma, ma stiamo a due giornate dalla fine del girone d'andata, quindi credo che sia veramente molto presto. E credo però anche, a proposito di Napoli, che presto ricominci la Coppa, ricomincia molto presto, ricomincia tra un mese. E questo vuol dire che ci saranno almeno altre due partite, ma ovviamente augurandogliene di più, che porteranno via al Napoli altre e preziose risorse ed energie fisiche e mentali per la Coppa rispetto al campionato. Tommaso, Milano, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a lei, signor Granzini. Ma partendo dal nostro milite ignoto, anche se ormai non è più tanto ignoto, insomma, i nostri dirigenti non perdono mai l'occasione di mi pareva che prima avesse fatto riferimento a un dirigente della nostra federazione che dice no, forse però questo significa sottolineare il cattivo atteggiamento degli altri. Una volta che si premia qualcuno per un bel atteggiamento, facciamo tutti squadra attorno a questo personaggio, senza se, senza ma. Classica così, posizione equivoca all'italiana, quando invece forse sarebbe il caso di essere chiari e netti. Ma non mi pare, Tommaso, che qualcuno sia equivoco. Tutti hanno detto, tutti hanno sottolineato la bellezza del gesto di Farina. Qualcuno ha però detto, e non è inedito questo commento, perché insomma risale a prima di Natale, sventurato il paese in cui un comportamento normale viene fatto passare per un comportamento eroico, ma questo mi sembra un'osservazione più che corretta. Ma questo sì, assolutamente. Se l'osservazione è questa, evidentemente l'ho sfumata io in modo non preciso, se l'osservazione è questa la condivido io appieno. Io volevo comunque sottolineare un atteggiamento, quello di Farina, che a volte riconcilia un po' con il calcio, perché per persone come me, che non sono nate tifose, ma lo sono diventate nel tempo, guardando quando ero bambino Maradona e Careca, appunto non essendo napoletano, sono episodi come questo che vanno un po' oltre il genere e riqualificano un po' chi dal calcio si stava un filo disaffezionando. È ovvio che se il gesto di Farina viene paragonato al gesto di tanti altri invece, anche senza far nomi, che non solo all'eventualità di una combine non dicono no, ma magari la promuovono, no? E sappiamo anche di chi stiamo parlando, è ovvio che il gesto di Farina allora assume un connotato eroico, ma è proprio lì l'errore, nel senso che esiste un codice di comportamento che dovrebbe rendere normale il gesto di Farina e che dovrebbe evitare tutti questi riflettori, questi lustrini e queste onorificenze a Farina stesso, credo io. Io penso anche che se avessi immaginato dove lo avrebbe portato quel suo rifiuto, ci avrebbe forse pensato due volte, no, non certamente ad accettare la combini, intendiamoci, perché quello... Questo è un ragazzo serio e per bene, l'ha dimostrato, ma insomma prima forse di, conoscendo le conseguenze, prima di andare a raccontare tutto, magari ci avrebbe pensato. E anche questa è una riflessione che si può fare, no? Perché è la nazionale, è la ribalta del pallone d'oro, insomma, mi sembra tanto, ecco. Filippo, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno dottore, proprio per combinazione ho sentito che l'ultima telefonata ha riaffrontato il tema della combina. Io trovo che rivedendo proprio stamani, peraltro su un filmato in rete, sulla stranissima reazione del portiere del Napoli, che in una partita Napoli-Lecce dei primi giorni del dicembre di quest'anno, al quarto gol della sua squadra segnato da Cavani, mostrava evidenti segni di dispiacere. I commentatori di Sky ci scherzarono dicendo evidentemente De Santis aveva nella sua formazione del fantacalcio il portiere del Lecce, quindi avrebbe perso un punto in forza di quel gol di Cavani. Tuttavia credo che poi queste immagini non siano state più rimarcate né mandate in onda, e mi domando se il solerte procuratore federale non possa ritenere di approfondire su queste immagini che sono inequivocabili, di aprire una indagine, perché come è stato detto le combine sono dietro l'angolo, questo è quello che volevo dire. Ma non necessariamente le combine, magari semplicemente le scommesse, non lo so, è un terreno molto scivoloso questo. Certo, quel filmato è inquietante come minimo. E allora, come scrive un ascoltatore, proprio in questo istante vedo un messaggio da Vittorio Veneto, Renato, dice o è un montaggio, e se non è un montaggio però insomma, è qualcosa che meriterebbe qualche approfondimento in più. Io credo che l'approfondimento sarà inevitabile, perché è da stamattina che questo video impazza un po' ovunque, non so come mai di colpo sia tornato a galla, non so come mai prima invece fosse stato trattato come una curiosità così del tutto innocua, non lo so, a me sembra che in un momento come questo un po' di chiarezza vada fatta su un episodio del genere. Poi ci sarà certamente una risposta plausibile, ma se la risposta nel frattempo arriva siamo tutti più tranquilli. Ma perché le sembra tanto? Domanda Amos da Modena a proposito del caso Farina. È un modo per stimolare l'emulazione. Una volta che abbiamo un personaggio positivo, dopo pagine e pagine su calciatori che danno fuoco alla propria casa. Il ragionamento sociologico sull'Italia facciamolo un'altra volta, per favore. Sì, ma questa è un'impostazione correttissima. È certamente l'impostazione di maggioranza. Io, che sono un bastian contrari, penso per natura, per pelle, per DNA, io penso che il dare tutto questo risalto a un comportamento virtuoso significa che ci sono pochissimi comportamenti virtuosi in giro e questo mi sembra poco rassicurante. E non solo, ma ho avuto l'impressione che proprio perché è una persona normale e per bene, questo ragazzo avrebbe fatto a meno, ripeto, ma l'ha anche, se non detto, fatto capire in un milione e mezzo di modi, avrebbe gradito che la cosa fosse scivolata via in maniera molto più normale, anche per altre ragioni, perché poi lui ha detto di no a un sistema in cui si usano anche metodi non sempre particolarmente gentili. Marco Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, salve a tutti, un saluto a tutti. Niente, guarda, io premetto che sono un tifosissimo del Napoli, anche un grande sportivo. Questa cosa mi indigna moltissimo, se fosse vero, appurato che fosse questo comportamento poco sportivo del grande portiere. Volevo fare un intervento di calcio pulito, calcio giocato. Ieri il Napoli ha fatto una grandissima partita. Io volevo chiederle, con l'arrivo di Vargas, lei non pensa che De Laurentiis dovrebbe cedere qualche gioiellino, i tre gioielli come li chiama, Cavani, Hamsik o Lavezzi? Ma non mi sembra questa l'intenzione. Aspetterei anche di vedere qual è il reale valore di Vargas trapiantato nel calcio italiano. Io stamattina leggevo, non so più da che parte, che non erano state usate molte fanfare in meno per Datolo qualche tempo fa, se non ricordo male. E poi invece magari non era il caso, no? Non so come dire. Ora Vargas invece sarà certamente un fenomeno, però prima di dare al Napoli quello che hanno dato e stanno dando Lavezzi, Cavani, Hamsik, che io lo vorrei vedere alla prova nel nostro calcio, ripeto, non, con tutto rispetto, ma non in quello, non in altri, in altri calci che sono magari ancora più prestigiosi, ma che hanno caratteristiche diverse dal nostro, da tanti punti di vista. Sentirei un frammento un po' desolato, che è quello dell'allenatore del Genoa. Dicevo all'inizio, due panchine nuove e due cambi che al momento non hanno davvero molto funzionato, quello del Palermo e questo genovano. Sentiamo Marino. Siamo partiti proprio timorosi fin dall'avvio e non c'è nessun motivo per esserlo. Abbiamo sbagliato troppo in fraseggio, abbiamo concesso delle opportunità importanti agli avversari con facilità estrema. Lo spirito certamente non è questo, perché gli avversari andavano il doppio rispetto a noi e noi correvamo a vuoto e correvamo male, anche non ci siamo, non scalavamo bene le marcature, insomma non ha funzionato niente. No, proprio niente. Maurizio Torino, buongiorno. Buongiorno, io volevo ricollegarmi alla volontà di Buffon di cambiare la regola sull'ultimo, da ultimo uomo col portiere che poi viene espulso, secondo me anche ingiusta. E volevo fare una considerazione con lei, vedere come la pensa. Nel senso che tra le tante regole che ci sono da cambiare, secondo me sarebbe un po' una rivoluzione nel calcio, però mettere il tempo effettivo per evitare quelle farse da presumati di giocatori che vengono appena toccati e perdono magari 3-4 minuti solo per perdere tempo, arrivare prima al 90esimo e magari portare a casa il risultato. È una cosa che personalmente mi dà un fastidio incredibile, facendo anche altri sport dove si picchia molto di più fisicamente, si ha lo scontro, però non si fanno queste scenate. Volevo sapere come la pensava. No, non la penso così. Non la penso così, nel senso che c'è un recupero. Una volta sì, era uno scandalo. Prima di Casarin, lo abbiamo ricordato proprio nei giorni scorsi. Prima che Casarin suggerisse, applicasse in Italia da designatore, parliamo dei primi anni 90, suggerisse all'Europa e questo modello italiano venisse poi davvero esportato in Europa e nel mondo, e cioè quello del recupero ben più robusto e della notifica ufficiale dei minuti di recupero attraverso un tabellone, allora sì. Oggi mi pare che si recuperi, poi magari qualche arbitro recupera poco, come è successo per esempio ieri a Lecce, ma non vuol dire, cioè questo è affidato alla discrezione arbitrale, c'è l'aiuto del quarto uomo e va bene, però mi sembra che di tempo ne venga recuperato. Il tempo effettivo che si ferma io lascerei agli sport da palestra, ma insomma, il calcio si gioca all'aperto, su uno spazio molto grande, è un'altra cosa. I colpi nel calcio, è vero, ci sono anche molte sceneggiate, ma ci sono delle botte che fanno male davvero, per cui è anche lecito magari sentir male e metterci un attimo in più a rialzarsi. Roberto Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto auguri a tutti e vorrei dire tante cose, ma so che ha poco tempo. È da tanto tempo che però voglio chiamare per questo. Tifoso milanista doc da tanti anni, ma noi non ce l'avevamo già in casa un allenatore che si chiamava Mauro Tassotti, che vedo che ogni volta che è in difficoltà Allegri è lì che bisbiglia, parlotta, chiede. E tra l'altro devo dire una cosa, anche se non ero molto convinto: complimenti all'atteggiamento, soprattutto con la testa, nella partita contro, anche se persa, contro il Barcellona, perché ho visto una gran partita. Ecco, volevo sentire comunque il suo parere, perché insomma Allegri non è un genio. Ma adesso che non sia un genio, che sia un genio non ne ho la minima idea, e comunque non è certamente il mio pulpito quello che lo può definire. Mi sembra un eccellente allenatore. Io credo che se Tassotti ha scelto di fare una carriera da secondo, credo che, dato che Tassotti è una persona, sono anni che non ci frequentiamo, ma che ho conosciuto in gioventù, quando lui ovviamente era più giovane ancora, ma insomma facevo il cronista e c'era un eccellente rapporto con questo giocatore. Lo conosco come una persona particolarmente intelligente e matura, oltre che di grande valore tecnico. Se ha fatto la scelta di fare il secondo, credo che sia la scelta sua, credo che si senta a suo agio in quella dimensione, anche per evitare troppi riflettori, troppe ribalte che evidentemente non gli sono così congeniali. Credo almeno che sia così, ed è una scelta secondo me che andrebbe, se così fosse, o che va, se così è, molto, molto rispettata. Tutto qua e De Rossi, ecco, De Rossi, perché sta storia di De Rossi è strana, indubbiamente, sembra, cioè, la società che dice ma sì, ma più o meno tutto a posto, lo stesso Totti che dice vedrete che resta, e lui invece che dice delle cose, che semmai farebbero pensare al contrario, sinceramente, perché sentiamo esattamente cosa dice. No, ma la standing ovation di oggi non è legata al mio futuro, è legata perché sono uscito per la prima volta negli ultimi, non so, 2 anni, non esco mai, sono uscito e mi hanno applaudito. Per il resto, insomma, ripeto, continuo a non parlarne, continuo a avere le idee molto molto chiare, sempre più chiare, e continuo a lavorare come sto facendo, perché mi sto togliendo delle grandissime soddisfazioni. Significa essere consapevoli di quello che si dice e di quello che non si dice, soprattutto perché in una città così dire un... una virgola in più scatenerebbe quello che non voglio scatenare, anche perché c'è un'attenzione mediatica che a me non dico spaventa perché sono sereno, ma un po' fa impressione, perché io sono uno che se non sta sulle prime pagine dei giornali e sulle prime pagine di Sky Sport 200 con i tuoi servizi di 10 minuti campa benissimo lo stesso. A me basta che la ruoi. Non è male, non è male De Rossi. Ora io così eccepirei che qualora lui dicesse ho deciso resto alla Roma, sui giornali o sul canale 200 di Sky ci finisce per 30 secondi e poi la questione è finita. Quindi questo mi fa pensare che in realtà abbia tuttora un'altra idea, o magari abbia già deciso per insomma in senso opposto. Però il discorso che ha fatto mi sembra un discorso serio, e chissà perché mi ha fatto tornare in mente anche il discorso di Farina a proposito di eccessi di notorietà e di sovraesposizione mediatica. Giampaolo, proprio da Roma, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, io volevo dare un giudizio all'atteggiamento che ha avuto De Santis, la reazione di De Santis nella partita Napoli-Lecce. Sono convinto, io la partita me la ricordo, sono tifoso del Napoli. Il suo gesto di stizza è nato dal fatto che Lecce era pericoloso, cioè poteva recuperare la partita, per cui lui è come se avesse un po' rimproverato tutta la squadra nel dire quando facevamo questo gol, era importante fare questo gol quando insomma facevamo questo gol. Lui tra i giocatori del Napoli, a mio giudizio, insomma, chiaramente non lo conosco personalmente, ma è quello forse più professionista. Quindi credo che sia un'analisi elementare dire che De Laurentiis abbia avuto, non avrebbe fatto palesemente, insomma, se avesse veramente fatto qualche insomma scommessa, oppure avrebbe combinato il risultato. Quindi mi sento, insomma, da tifoso del Napoli di tutelare un giocatore che a mio avviso è uno dei insomma più grandi professionisti del campo. Sì. Per carità, ma infatti non nessuno sta accusando nessuno. Il popolo di YouTube si interroga su questo curioso comportamento. Curioso mi pare che sia un aggettivo che ci può stare. La Triestina ha tempo fino al 31 gennaio per ricapitalizzare la società ed evitare il fallimento. Questa si è appena conclusa l'udienza davanti al giudice del Tribunale Civile, il presidente del Tribunale Civile Giovanni Sansone, che ha concesso questa proroga di oggi è 9, 31, 22 giorni al presidente Aletti per cercare di salvare la società da un fallimento che però se non già garantita, perché qualcosa può sempre accadere in questi 22 giorni, sembra come minimo molto ma molto ben avviato. Sentiamo che cosa ha scoperto Nicola Filippone a proposito di questo 9 gennaio. Sembra ieri. 9 gennaio 1974, il Milan coglie una vittoria prestigiosa nell'andata della prima edizione ufficiale della Supercoppa europea. A San Siro i rossoneri, guidati da Nereo Rocco nel ruolo di direttore tecnico, con Cesare Maldini allenatore, si impongono per 1-0 sull'Ajax, detentore della Coppa dei Campioni. Decide un gol di Chiarugi al 77esimo. Al ritorno però, la settimana successiva ad Amsterdam, il Milan crollerà in maniera inattesa e finirà col subire un umiliante 6-0, con le firme di Mulder, Kaiser, Neskens, Rapp, Muren e Hahn. Sto ripescando qualche numero di Franco Piantanida. Questo è significativo per il povero Zena, perché prima dei tre gol che ha preso il Genoa ieri a Cagliari, il Cagliari ne ha segnati 3 in 8 partite casalinghe, e quindi questo davvero non è un ottimo segno. La Fiorentina non vinceva fuori casa dal 23 aprile. E il fatto di esserci riuscita, voglio dire, servirà per il suo morale e magari un po' meno per quello del Novara. I 209 gol di Totti in campionato, grazie ai due rigori segnati ieri, sono quasi un record, nel senso che sono stati segnati tutti con la stessa maglia, e se prendiamo la classifica ufficiale dei cannonieri di tutti i tempi che hanno segnato con la stessa maglia, a quota 210, quindi un gol più su di Totti, c'è Nordahl con la maglia del Milan, con una media strepitosa, perché Nordahl segnò quei 210 gol nel Milan in 257 partite, pensate, mentre Totti ne ha giocate 484. Ma è vero che con un altro gol Totti eguaglierà Nordahl come cannoniere come dire, di assoluta fedeltà, e con due invece addirittura stabilirà il record assoluto. Andrea Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Sì, dica. Buongiorno. Senta, signor Barini, io sia molto d'accordo su chi asterisce. Non, Andrea, dobbiamo richiamarla, abbia pazienza, non c'è una buona linea. E dunque, vi ho letto di Ranieri, vi ho letto della Triestina. Mentre ripristiniamo questo collegamento, chi potremmo ascoltare? Beh, io direi Cavani, perché ieri sera è stato eccellente Cavani con quella prodezza di quel gol, ma mi pare che altrettanto eccellente, se non di più, sia stato il pubblico di Palermo con l'accoglienza e la sottolineatura che ha riservato a un suo vecchio idolo. Sentiamo. Mi sono emozionato perché penso che in questa città e in questi tifosi ci sta la gente, quella che mi vuole bene, però mi vuole bene come un uomo, quindi veramente mi sono emozionato, però sono più contento perché abbiamo vinto e perché la nostra rincorsa ancora continua. Sì, importante quando segnano gli attaccanti, vuol dire che la squadra lavora bene, lavora per loro, per gli attaccanti, quindi quella è la cosa, e secondo me deve essere l'obiettivo, lavorare sempre per quelli che giocano davanti. E quindi diciamo che al di là degli anni, come ho detto prima, che il Napoli non vinceva in questo stadio, io credo che la cosa più importante è essere lì, vincere e raccogliere punti e andare verso l'obiettivo, che noi sappiamo qual è. Che noi sappiamo qual è, vabbè, lo scopriremo vivendo qual è. Massimo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo farle una considerazione, mi interessava molto il suo parere. È chiaro che le grandi squadre per poter vincere devono comprare grandi campioni. Come sta guardandola? Io guardo un po' il calcio in maniera molto tranquilla, quindi ho 60 anni, sa. Non, le passioni mi sono un po' andate. Volevo un po', cosa pensava lei del fatto che, per esempio, sto guardando con attenzione l'Inter, che comunque sia, pur essendo una squadra che comunque sia, deve vincere, perché se no tiene San Siro mezzo vuoto come Euro ultimamente, ma sta impiegando per esempio tutta una serie di giovani, sta investendo sui giovani. Penso che in prima squadra ci siano 6 giovani, parlo di Obi, parlo di Poli, parlo di Coutinho, parlo di Alvarez, parlo di Castagnos, parlo di Ranocchia, parlo insomma di Faraoni, ecco, come vedrei questa cosa? E poi volevo chiedere semplicemente una cosa così. A me piaceva molto che nel mercato, ad esempio, dell'Inter ci fosse quella figura che è Oriali, ma che fine ha fatto? L'aspetto per radio. Ha avuto disavventure societarie, di compatibilità con altri dirigenti. Sì, l'Inter è una squadra di quelle che più hanno rinnovato, per un po' per scelta e molto per necessità nelle ultime due stagioni, e cioè, poi per un giovane farsi largo nel calcio italiano, soprattutto ad alto livello, è sempre molto più difficile che non all'estero, no? Un discorso che abbiamo fatto un milione di volte, oggi facciamo 1.001.000, perché è così. Avendo la voglia, la forza o la necessità in qualche caso di insisterci, poi magari i risultati si possono anche arrivare, perché per esempio la prima mezz'ora, forse il primo tempo, direi, che ha giocato Alvarez l'altra sera è stato un primo tempo da davvero grande giocatore, davvero grande fantasista, e però pur intuendone il talento, perché non era difficile da cogliere anche nelle giornate più storte, finora non era andata così. E quindi i giovani sono un grande investimento, a patto però di perseguirlo seriamente. Non si è riusciti a ripescare l'ascoltatore di prima, e per un problema serio di audio lo faremo in una prossima occasione. Ha chiamato Dino da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Due domande velocissime sulla Juventus, visto che sono uno juventino da generazioni. La prima è: cosa pensa di Antonio Conte? Io ho sempre pensato fosse un grande allenatore, però ho paura, quando è arrivato alla Juve, che la sua grandissima forza è quella di mantenere i giocatori sempre sul filo e sfruttarli al 110% delle loro possibilità. È un grande psicologo, grande nervosismo in campo, grande agonismo, ma volevo dare un parere sull'allenatore come tattico, come tecnico. E la seconda cosa anche Di Marotta, che è il nostro direttore sportivo, grandissima stima, ma ho paura di aver visto un Marotta che non è stato a livello degli anni della Sampdoria e dell'Atalanta, quando ha scovato veramente dei grandi giocatori con pochi soldi, e la mia paura è che forse sia stato un po' dal volere della società. Insomma, io non lo so, su Conte, credo che insomma, mettersi a eccepire oggi su Conte sarebbe davvero un esercizio di pura retorica, no? Anche se poi sarà il tempo ovviamente a dire fino in fondo, ma mi pare che quello che ha combinato già fino adesso basti come biglietto da visita. Marotta, lei sente la sigla sullo sfondo e quindi devo chiudere. Diciamo che avere Amauri, Toni e Iaquinta da far fuori in un colpo solo, insomma, depone relativamente, secondo me, a chi in questi ultimi tempi ha gestito, se non altro, il mercato. Grazie a tutti e gli intervenuti, a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio. A tempo di sport.